140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco la protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Le suite di Palazzo Segreti, Milano. Torna a scalare le classifiche con un album che si chiama semplicemente Adesso. Lei è Emma. Io sto facendo... al contrario, come sempre, no? Perché tanto mia mamma me l'ha sempre detto che non sono una normale. Sì, questo è un disco anche che mi riporta alle mie prime origini, alle origini di appartenenza, a questi suoni, insomma, che mi hanno accompagnato nell'età, insomma, dell'adolescenza. E quindi piano piano li sto riportando dentro di me, li sto riportando nei miei progetti. Con cura, senza presunzione, senza, insomma, voler stravolgere completamente quello che sono stata fino a ieri. Semplicemente si cambia. Qui si parla sempre di prodotto, tu dici che usi ovviamente solo il termine disco, ma anche quasi libro. Sì, perché come se fossero 13 capitoli, 13 storie, e sono più le storie che degli altri, ho raccontato molte storie degli altri in questo disco, più che storie mie personali, a parte, insomma, la prima e l'ultima traccia. Quindi è stato bello anche entrare nella vita degli altri, rubare in un certo senso la vita degli altri, renderla propria e raccontarla in maniera diversa, in maniera che gli altri la possano ascoltare, perché chi fa questo mestiere ha anche la possibilità di urlare le cose in maniera molto più diretta, di farsi ascoltare. Quindi mi sono presa il carico e la voglia di dire anche che c'è altro nella vita, non ci siamo solo noi stessi. Per questo paese invochi un cambiamento rapido e deciso per l'Italia. Sì, mi auguro, io poi ho questo modo passionale di dire le cose, mi infuoco per cose che a volte anche mi riguardano marginalmente. L'Italia siamo noi, l'Italia è anche quel paese dove tanti giovani si fanno il mazzo per portare il pane a casa. I giovani che non si lamentano, i giovani che non sono degli sbandati. E secondo me le grandi rivoluzioni sono sempre partite dalle piccole rivoluzioni, quindi il paese può cambiare anche se ognuno di noi cambia l'atteggiamento che ha nei confronti di questo paese, che molto spesso viene bistrattato, viene offeso. Quindi l'amore per l'appartenenza a questa Italia vale molto di più di tante offese, e io mi metto dalla parte dei giovani che fanno tanto e che spesso dei quali si parla poco. Parli di omofobia, parli di violenza sulle donne, ti senti la responsabilità di parlare al tuo pubblico, di veicolare anche dei messaggi? Quella è una scelta personale, perché in fondo uno potrebbe anche non mettersi in determinate situazioni e essere anche attaccabile, no? Ma io nella vita ho sempre tenuto il fianco scoperto, nel senso non mi sono mai nascosta dietro un dito, e lo faccio perché lo sento davvero, perché noi non siamo nessuno per dire chi ha più diritti rispetto a un altro. Lascerò mai che il tempo asciughi il ricordo di quei baci che ho preso, anche se di nascosto. Siamo pezzi imperfetti, ma leghiamo lo stesso. Siamo la musica che suona quando fuori c'è il silenzio. Dentro è tutto acceso. fuori è buio, dentro è tutto acceso e fuori, come le notti senza stelle, senza far l'amore, dentro la bocca quei rimpianti che fanno impazzire, ho preso a calci questa stanza fino a farmi male, e se hai coraggio amore dammi tu la pace, le parole giuste. Prendi tutto il tempo necessario per mettere su il tour e sorridendo hai detto la gente avrà tempo di mettere via i soldi, però è bello questo pensiero. Beh, è la verità, siamo anche in un periodo dove la musica sembra rifiorire sempre di più, ci sono tanti album in giro, tanti tour in giro e questo fa bene a tutti, perché bisogna sapere che dietro un tour di un artista lavorano tante persone, lavora lo staff, lavora il catering, lavorano gli alberghi, lavorano i driver, lavorano veramente tante cose, quindi mi sono presa sicuramente il tempo giusto per costruire un buon tour, ma anche per dare ai ragazzi il tempo necessario per venirci, perché bisogna fare i conti anche con questo, bisogna fare coi conti, i conti con il fatto di dover mettere i soldi da parte, come ho sempre fatto io da ragazzina quando volevo andare a vedere un tour di un artista che amavo. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Emma. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.